Comparenzo, dico solo quel che penso. Comparenzo e con Cruciani siamo tutti meno cani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sensuale che ha Cruciani, è veramente una bellissima voce, per cui complimentoni per questo suo programma che ho ascoltato così recentemente. Siete proprio bravi, si è inventata un'idea geniale. Sì, mi senti lei, il Cruciani mi piace di più. Da Parenzo un po' meno, da Cruciani mi potrebbe piacere, non ho detto che mi piace, mi potrebbe piacere. Love you. I like a virgin. Iniziamo col personaggio che vorrei a capo del mondo, direi governatore del pianeta. Allora, io vorrei Sicignano presidente della Repubblica. Già l'ho detto, oggi non ha parlato purtroppo, Parenzo, non ha parlato oggi. Nessuna televisione, nessun talk show. Bel silenzio, non fu mai scritto. No, ma deve continuare a parlare ogni giorno. Parlerà in tribunale, vedrai come parla in tribunale. Il prossimo presidente della Repubblica, Francesco Sicignano, deve continuare a parlare ogni giorno, ogni santissimo giorno. Oggi parlerà davanti agli avvocati, in tribunale, parlerà, racconterà, spiegherà. Davanti al tribunale sarà un passaggio formale, spero che non ci si arrivi davanti al tribunale per il signor Sicignano. Spero che non ci si arrivi. Comunque, che succede? Non ha parlato il prossimo presidente della Repubblica, ha parlato invece il prossimo governatore del mondo, direi anche capo dell'ONU. Si potrebbe fare se l'ONU servisse a qualcosa, in realtà non serve a nulla. Dunque, eliminiamo capo dell'ONU. Lo vorrei fare governatore del pianeta, il signor Vincenzo De Luca. Attuale, purtroppo, solo governatore della Campania. Una nomina. Molto poco, no? Governatore della riduttivo, Campania. Riduttivo. Sì, certo. Molto riduttivo. Cioè dovrebbe essere, ripeto, governatore del mondo. Signor De Luca che in questo modo si esprime sulla sua compagna di partito, anche se poi in realtà sembra che siano da una parte uno e dalla parte opposta l'altra, Rosaria Bindi. Lei è molto generoso con l'onorevole Rosaria Bindi, che ha violato più di una regola. Ha votato il suo partito. Lasci perdere il regolamento. Quando si riunisce la commissione antimafia, bisogna riunirla. Non è che ti svegli la mattina e a 24 ore alle elezioni ti inventi la categoria degli impresentabili. Chi sono gli impresentabili? Per me impresentabile è l'onorevole Rosaria Bindi. Lei insomma non aveva impresentabili nel. Non so se è chiaro. Lei ricorre alla Bindi che ha mal applicato quel regolamento, al di là della dinamica politica. Io ricordo alla Bindi la sua esistenza, per la verità, ma diciamo che per quello che mi riguarda, per quello che mi riguarda è un atto di una scorrettezza e di una gravità unica, al di là di tutti i regolamenti. Allora, non so se avete notato le frasi del prossimo governatore mamma del mondo. Mia, mamma mia. Il quale De Luca non solo ha detto, vabbè, che è impresentabile la Bindi sotto tutti i punti di vista, primo, e dunque anche, immagino, sotto dal punto di vista estetico. Poi il fatto che la chiama Rosaria Bindi, proprio per disprezzarla, no? Sì, certo. Rosaria Bindi. Rosaria, Rosetta, gli dice. Sì, perché no? Rosi Bindi è un po' più barocco come nome, eccetera. E poi, vabbè, ragazzi, il top del top quando dice rimprovera la Bindi la sua esistenza. Beh, mi pare completamente fuori dalle righe ormai. Beh, fuori dalle righe dire poco. Totalmente. Quando gli viene in testa il nome della Bindi, cioè quando gli vai si para matti. Di fronte vai no, matti. No, impazzisce. Cioè scoppia la vena, gli scoppia proprio la vena. Perde tutto il controllo. E da questo punto di vista, da questo punto di vista, dal mio punto di vista è assolutamente il numero uno. scoppiata una polemica sul signor Varoufakis, anzi no, sul signor Varoufakis, sul signor Fazio, che ha invitato qualche tempo fa, dopo la vicenda greca, dopo le sue dimissioni, l'ex ministro delle finanze greco, quello che trattava il debito, ricordate quel signore pelato, c'erano state anche molte caricature del signor Varoufakis, no? Che è uno che pare che piaccia molto anche alle donne. Varoufakis invitato a Che tempo che fa su Rai 3, lo abbiamo pagato noi questo invito, con la modica il contribuente italiano ha pagato la presenza di Varoufakis 24.000 euro, più di 1.000 euro al minuto, perché la comparsata, l'intervista per modo di dire fu di 22 minuti, poco più di 1.000 euro al minuto, più spese e più aereo in first class. Allora io voglio chiedere ai nostri ascoltatori, al grande popolo della Zanzara, se voi che pagate il canone, perché sicuramente molti di voi lo pagano, perché in realtà l'evasione è alta, comunque quelli che pagano il canone o quelli che non lo pagano, quelli che pagano le tasse e mantengono il baraccone della Rai, sono contenti di avere pagato 24.000 euro, 1.000 euro al minuto per la presenza del signor Varoufakis da Fabio Fazio? Ne è rimasta traccia di questa grande presenza televisiva? Sì o no? Beh, ma può valere per qualunque ospite che è pagato, diciamo, no? Ma diciamo che non è normale pagare. La Rai non è che paga gli ospiti di solito, cioè, no, ogni tanto Madonna va da Fazio, non credo che è stata pagata la signora Madonna. Che scherzi. Ma non no, è stata aspetta, pagata. Lì è andata forse a promuovere un disco, appunto, una cosa. Mio. Però, nemmeno Madonna viene pagata. Nessuno di noi è una vergine che vive all'oratorio. Se ti piace che la Rai abbia pagato il servizio pubblico, dunque anche i tuoi soldi, 24.000 euro per ospitare Varoufakis. Io pago il canone, ma no, non mi scandalizza, sai perché in generale? Perché gli ospiti a pagamento ci sono sempre stati, sia nella TV pubblica sia nella TV privata, ovviamente, no? Fa impressione la cifra, forse, dice, ne valeva la pena. Beh, per chi l'ha invitato, sì, e per l'ascolto forse. Comunque, sì. Gasparri su questo. Secondo te che ha detto Gasparri? Prova a indovinare. Gasparri? Che ha detto secondo te? Ma è inammissibile pagare un comunista con i soldi peggio, pubblici. Peggio. Senti, ti prego, numero uno, senti. Gasparri. Fabio Fazio, oltre ai costi suoi, ha pagato 24.000 euro per avere Varoufakis ospite. Ora, sa pagare Varoufakis, le cui ricette economiche, insomma, non mi pare che abbiano avuto tutto questo successo in Grecia, dovrebbe dare Varoufakis 24.000 euro alla Rai per parlare, insomma, no? Anche Tsipras va accantonato, insomma, voglio dire, quindi non è che parlo al di là delle mie appartenenze politiche, insomma. Dovrebbe pagare Varoufakis, in dracme andava pagato, dai. Un assessore, credo in provincia di Treviso, se non sbaglio, Padova, in provincia di Padova, si chiama Miazzo, un assessore all'ambiente, sì, sì. Peraltro imbraccia il fucile e grida ai ladri: vi ammazzo, non ha manco il porto d'armi. Miazzo si chiama. Sì, sì. Sentivamo il gricciolio del legno e mia moglie ha gridato: i ladri, i ladri! E io non ho esitato un attimo, ho imbracciato il fucile, l'ho caricato, fatto così, e automaticamente mia moglie ha aperto la porta, ho gridato: delinquenti, vi ammazzo, delinquenti! E questi sono scappati. Classe dirigente. Vabbè, un assessore, adesso tu c'hai. Te le immagini e in Audi tu? Ma che così? Cazzo c'entra in Audi adesso? Su, ma sempre questa a fare questi paragoni dirigente. Inutili, dai. Classe dirigente. Ma sai che abita in campagna, in una zona forse infestata? Ma ce l'ha il porto d'armi questo personaggio? Non ce l'ha. Si va, chi è? Un modello nuovo da Vuoi far arrestare questo signore di 70 anni? Vorrei venisse applicata la legge anche verso questo assessore, se non so se andrebbe preso a casa e andrebbe portato. Sarebbe applicata la legge. Se non ha il porto d'armi e ha imbracciato un fucile. Beh, sì, francamente sì. Dai, su. No? Non va applicata la legge? Ma sì, questo ha sparato, non ha manco sparato, credo. Infrangere le leggi sono i leghisti, non si applica la legge. Ma ha fatto leghista questo. Fai questo, o dei Fratelli d'Italia o altre cose, non lo so. Fai questa norma: che se a sparare una persona della Lega che però non ha il porto d'armi, per lui c'è una scriminante ulteriore, che è quello di essere un moderno Bruce Willis. Allora, da... abita in campagna e non so se abbia armi a casa. Anche zero, è uno 0-0, minchia, no. Dai. Oliviero Toscani, Oliviero, come stai? Bella, stai bene? E tu? Benissimo. Che si dice nella ormai tua campagna? Ormai difende anche chi spara, Oliviero, è incredibile. Ma, ormai. Ma perché non spari anche tu in campagna? Andate a spararvi delle seghe, dai. Voi, ma questi qua devono andare a spararsi delle seghe. Sì, esatto. Perché, dici? Ma che cazzo sparano? Non sanno neanche scrivere, non sanno neanche scrivere. Ma scusami, abbi pazienza, Oliviero, se uno si sente come dire, minacciato, un ladro viene a casa tua, non è che bussa alla porta, pronto, buongiorno, vorrei fare una rapina, si può scansare per favore, si può mettere da parte? No, magari stuprano, uccidono, eccetera, uno non ha il diritto di sparare secondo te, spiegamelo. Lo ammazzi prima che faccia tutto, e sei sicuro che fa tutto questo? Ma non sono sicuro, però a scopo preventivo sparo. A scopo preventivo sparo. No, non devi sparare. Spero che non sia tuo figlio a fare queste robe qui. Ma che vuol dire? Che sia tuo figlio andare a rubare. Ma tu nei confronti no, di no, se fosse tuo figlio andare a rubare, gli spareresti? No, dimmi. Se qualcuno spara a mio figlio che ruba, fa solo bene. Ah sì? Fa solo bene, sì. Se mio figlio va a rubare, se passa la sua vita a rubare qualcuno, incidente sul lavoro. Capita che ti sparano in testa. È un'altra roba. Amico mio, è così, No, vabbè, comunque qual è il problema? Il problema è solo uno, che c'è questo signore siciliano, l'hai visto in televisione te, questo signore siciliano, quello che ha sparato al signor ladro pensionato. Che dice? Però. Un po' esagitato in televisione, come lo vedi? Beh, insomma, non è proprio tranquillo, non è proprio Tu ti fideresti di uno così? Io sì, lo voglio Presidente della Repubblica. Appunto. Lo voglio Presidente della Repubblica, io questo sì. Qua l'Italia non può avere che un Presidente della Repubblica così. Ma perché, come ti è apparso in televisione questo siciliano? Ma no, non voglio dare giudizio. Fuori di testa. Ma diciamo. No, fuori di te, poverino. No, io non gli darei mano un fucile a uno così, no. Cioè tu dici bisognerebbe innanzitutto togliere il porto d'armi subito. Ma subito. Subito togliere il porto d'armi, dici, Ma tu scusa, vivi in una villa isolata anche, in un possedimento isolatissimo. Isolatissima. Da te i ladri non sono venuti a pizzicare ogni tanto qualcosa? Hanno paura. Perché hanno paura? Hanno paura, e non so perché hanno paura. Hanno paura, non vengono. E perché non vengono? Perché? C'hai? Sistemi di sicurezza? Che no, c'hai i cani? No, c'ho dei cani fantastici. Ma i cani che c'è? Se vogliono rubare i cani, sai che c'è? Ma sai, sono 7 o 8 che girano. Cioè tu dici alla fine non servono le pistole? Ma no, ma assolutamente. Cioè ma tutti quelli che dicono adesso bisogna armarsi, eccetera, non ma servono. No, ma sono delle seghe, sono gente che ha paura, sono pericolosi comunque questi, non sono certo. Sani. E quindi se vuoi parlare con gente non sana, chiaro, tutto è giustificabile. Ma vai in giro armato, ma dai, ma ragazzi, ma siamo impazziti, ma in che anno siamo? Vabbè, ho capito, Oliviero, ma in America succede, in America lo fanno. Ma in America succede, anche che uno entra nelle scuole e ammazza 40 studenti, certo. Allora vabbè. Sei contento. Ma non c'entra niente quello. Ma in America quello, succede dai. Un sacco di cazzate. Guarda, che fantastiche. L'autodifesa credo che sia un diritto che l'Italia dovrebbe fare un passo avanti da questo. Ma no, motivo. Ma l'autodifesa... Più pistole no. Per tutti, legalmente. Ma no, ma l'autodifesa deve essere una cosa organizzata... dallo Stato, non dal singolo individuo. Senti, a proposito, ti ho visto ieri sera con la Santanchè in televisione. Amica, sì. Come ti è apparsa in televisione? In televisione non l'ho vista, io l'ho vista, c'ero di fianco. Ah, di fianco, sì, no, appunto quello dicevo. Di fianco, che impressione ti ha fatto? Ma sai, stanno perdendo questi qua, Forza Italia, sono un po' patetici, No, ma a parte questo, come politicamente, come ti è apparsa averla da vicino, la tua amica Santanchè? Ma la conosco da tanto tempo, c'ha un bel culo già. No, veramente c'ha un bel culo? Sì, c'è anche sempre un bel culo, devo dire, piacevole. Ah, una bella donna. Infatti mi domando, è molto meglio una donna piacevole, un bel culo che dice le cazzate, o una donna brutta che dice cose intelligenti? Mi domandavo guardando lei. Che risposta ti sei data? Ma dipende cosa c'è da fare. Cioè? Tu cosa pensi? Non lo so, dimmi tu, ed è tu che hai avuto questo pensiero. No, la Santanchè c'è un bel culo ancora. Per la sua età non è male. Non è male. Un po' siliconato, un po' rifatto, insomma. Ma hai avuto anche tu delle tentazioni là accanto, ti è venuto... Ma dicevo, fra le cazzate che dici, sarebbe meglio se stesse zitta e mi lasciasse toccare il culo. Ah, dici? Pazzesco. Traffico, fermi, traffico. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, traffico no. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. I've been doing things worthwhile, you've been looking. Ragazzi, qualcuno mi segnala che Oliviero Toscani una volta ha fatto una pubblicità contro la caccia, giusto? Sì. Con le mogli degli uomini, com'è che faceva? Certo. Allora, cacciatori, mentre voi siete nel bosco a cacciare gli uccelli, le vostre donne prendono gli uccelli di chi non va a caccia. Sono a casa, prendo gli uccelli di chi non vuole. Ma era una roba così, adesso me la ricordo, ma sì, era tutta disegnini. Ma no, dai, abbastanza immaginifica. Io sono a favore della caccia tutta la vita, caro Oliviero. Ma no, ma vanno a caccia, intanto le loro mogli fanno qualcosa d'altro. Ma questa era contro... poi volevo dirti, sai perché la gente non viene a rubare da me? Perché non c'ho niente, io pensavo. Mia moglie non ha gioielli. Sì, sì. Ma tu non c'hai una cassaforte a casa? Non c'è una cassaforte per tenere cosa. Non ho un quadro. Non ho un tappeto persiano, sì. non ho l'argenteria, ho una casa molto... Maestro, questa qua è una comunicazione ai ladri, diciamo. No, non c'ho niente, ma lo sanno bene, ma figura, entrano in casa, la gente sa... Sì, no, io è vero, sono stato, cioè è bella perché è una bella villa, ma è spartana, cioè un posto... Ho capito, ma i signori che subiscono come quel siciliano 4-5 furti da parte di italiani, no, rom... Ma no, perché c'hanno gli orologi, c'hanno Swatch, è finito... Ho capito, ma questi signori qua che come dire, subiscono furti di continuo, che devono fare? E cosa vanno? Ci vadano, vadano al come si chiama? Dove, al poligono. Al poligono, vivono nel poligono con i fucili. Ma ho capito, ma cioè, devono trasferire la residenza, cioè cambino casa, dici te. Ma no, ma ci sono dei sistemi d'allarme che funzionano benissimo, cioè, ci si attacca alla polizia, alla cosa, il carabiniere arriva su, da me arrivano in 3 secondi, se qualcuno viene a rompere i coglioni. Scusami, Oliviero, ma Bonanno che ha portato la pistola in televisione, hai visto? Sì. Poverino Bonanno, ma mi perché? Fa pena. No, dai, su. Bonanno, beh, si fa pena, poverino. Sì. Perché? Che ha fatto? Ma perché è un caso clinico, poverino, dai, mi fa pena, mi dà proprio. Fa tristezza, fa dispiacere. Ma no, proprio, ma poverino, no, come un bambino un po' demente, no? Poverino. Ma scusa, mi ha portato la televisione in televisione una pistola per fare come un gesto di provocazione. Sì, perché pensava lui fosse carnevale, non so io. No, è un grande gesto di provocazione, ma un grande gesto. Allora ti devo dire, questi qua con queste pistole in mano, fucili, sì, mi sa che c'hanno tutti dei cazzettini piccoli. Soffrono tutti di complesso di Buonanno è uno di questi, c'ha sì, cazzo c'è piccolo, un cazzettino dici. Piccolo, sai, quelli che hanno i mitra, le robe, le pistole, dici, quelli che mostrano in televisione, sì, no? Sì, c'hanno dei cazzetti che riescono appena a fare la pipì. È una tesi, una vecchia tesi questa qua, questa ma che no, chi... è una tesi che c'è una verità, lo so, lo cioè dicono. Tu dici che poi la dimostrazione vogliono portare in mano queste pistole per una sorta di rivincita. Cowboy, sono tutti dei cazzettini e sono finocchi. E sono anche finocchi. O sono finocchi. Così ho finocchi. Sì, sì. Stasera sei informissima. Senti, la carne, la questione della carne, avrai letto tu, no? Sì, io sono vegetariano. Pure! Nel cuore, vuol dire nel cuore? Sono vegetariano nel cuore, non nella bocca. Cioè, che vuol dire? Nel cuore sei vegetariano perché quindi la carne non mi fa male. Vabbè, ma adesso questa qua è una tua invenzione personale. Autosuggestione. Vabbè, ho capito, cioè che vuol dire? Mangi lo stesso la carne, però cioè, ma è logico che mangio la carne, ma figo. E non hai paura adesso che sia un po' cancerogena la salsiccia? Ma morirò comunque, ma voglio morire godendo. Per cui questi qua, questi parrucconi del... Ma vado a cagare, conosco tanta gente che vegetariana che è morta giovane, ma non rompa le palle. Dicono che... tutto ciò che fa male piace. Allora, questo è d'accordo. Questo siamo tutti d'accordo su questo. Allora. Ma non è detto che, però, uno, come dire, se tu ti mangi le salsicce, dicono questi qua, molte salsicce, il cancro ti può venire più facilmente. Questo è il ne ho mangiate tante, ho 73 anni, sto benissimo, tiro ancora l'uccello. Anche le salsicce. Però guarda che molti dicono che l'amico Red Ronnie dice che si fa meglio sesso, si scopa meglio con. No, mi basta così, ho già fatto abbastanza danni. Mangiando le salsicce, avere un uccello così. No. Pensa, fossi stato ancora più forte. Mamma mia, quanto mi sarebbe costato di più. Cioè, tu dici, se fossi stato vegano, vegetariano, mamma dunque, magari mia, più forte fisicamente. Ho già 6 figli così, 12 nipoti. Se fossi stato vegano, avrei 24 figli. Pensa i costi, le matite, i quaderni, i gelati, le separazioni. Vacanze. Mamma mia, le biciclette in più. No. Basta così. Ex moglie, le biciclette. Mamma 6 figli è buono. Senti, ma Valentino Rossi, sei amico di Valentino o no? No, non lo conosco, sfortunatamente, ma è simpatico. Mi è sempre stato simpatico. E questa storia l'hai seguita o no? Questa con Marquez. Sì. Ma non c'è un rigurgito un po' di nazionalismo, tutti contro? No. Valentino è grandioso, vedrai, vincerà il campionato del mondo. Pure secondo me. Ma è logico. Pure secondo me. Anzi, se fossi lui li sbatterei fuori a 1-1. No, così ti squalificano. No, battendoli fuori. Ma ti squalificano così, scusami. Vabbè, squalificheranno, ma vinco io. Ma ho capito, ma non gli può dare il suggerimento di la storia in quel modo lì, mica deve andare in giro a cercare il consenso lui. Scusa. mica deve andare a cercare consenso. Lui, ho capito, deve vincere, vuole vincere la grande. Ho capito, vuole vincere se sbatti fuori le persone. Ma appunto, deve vincere anche buttandoli fuori a uno a uno. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Andate a spararvi delle seghe voi, ma questi qua devono andare a spararsi delle seghe. Ma che cazzo sparano? Non sanno neanche scrivere, non sanno neanche scrivere. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. No, la Cantanché c'è un bel culo ancora. Per la sua età non è male. Un po' siliconato, un po' rifatto, insomma. Ma dicevo, fra le cazzate che dice, sarebbe meglio stesse zitto e mi lasciasse toccare il culo. Dimmi, tesoruccio! Andate a spararvi delle seghe voi, ma questi qua devono andare a spararsi delle seghe. Per una volta non è farina del nostro sacco, caro Parenzo, eh? Non è farina del nostro sacco. Per carità, per carità. Cosa per carità? Cosa? No, appunto, non è Vittorio uscito. Feltri sugli impiegati pubblici, eh? Vicenda di Sanremo, come sapete, eccetera, eccetera. La gente che timbra il cartellino per conto degli altri, la gente in mutande, la gente che va in canoa, eccetera, eccetera. Feltri dice, beh, l'impiego pubblico, se non uccidi un collega, è sicuro a vita. L'impiego pubblico diventava una specie di luogo certo, nessuno ti poteva licenziare, nessuno misurava il tuo lavoro, in sostanza facevi gli affari tuoi purché tu non uccidessi un collega in corridoio con quattro testimoni, tu avevi il posto garantito per tutta la vita. Interpreta De Luca, il governatore del mondo, quello che io vorrei governatore del mondo, che ha detto che la Bindi è quello che è, no? La Bindi, rimprovera la Bindi persino la sua esistenza, signor De Luca Crozza. Luigi De Magistris, sì, che è il sindaco di Napoli. Detto Gigino. Non lo so, vabbè, si chiama non... Sindacetto. Ma no, è... Sindacetto col sorrisetto sulla faccia. Ma no, si è fatto... bocciare il ricorso. Vabbè, hanno bocciato in quanto lo ha presentato sciatto, scritto sui biglietti dell'autobus usati con macchie di unto di pizza. Ok, perfetto. De Magistri, no. Su un uomo che gode a farsi bocciare il ricorso. Vabbè, ma tanto comunque l'hanno assolto. A casa ne è una vasca piena nella quale si immerge per trarne piacere. Ma non credo, non credo. I miei di ricorsi sono dei capolavori di letteratura forense di cui Steven Spielberg ha chiesto i diritti per poterne fare un corso. Addirittura. Scatenato Crozza contro Buonanno, il povero Buonanno ieri di martedì, sembra un po' esagerato, francamente. Adesso che esagerato. Il fuoco concentrico contro Buonanno me lo fa diventare ancora più simpatico. Questo cicciottello un po' in carne, deputato europeo della Lega, mattacchione, pazzarello, il quale alla fine non fa male a nessuno, fa politica in modo offende, così, dai, fa male anche. Mamma mia, dai, Crozza. Il comune di Borgo Sesia, in provincia di Vercelli, di cui Buonanno è sindaco, ha annunciato, Giova, il bonus pistola. Ma chi saranno i primi a comprarsi un'arma? Chi saranno? Testa di Buonanno, i ladri! E una volta che avranno la pistola, i ladri e tutti avranno la pistola, Buonanno si inventerà il bonus mitragliatrice, e poi il bonus cannone, e poi il bonus portaerei! e porta via i coglioni, buon anno. Marco da Lucca, vai, 800 24 00 24. Marco, allora, molto semplice. Dimmi. Chi mi aggredisce, sì, non ha il diritto di scegliere con quanta e quale forza io gli devo rispondere. Sì. C'è un vecchio adagio, un latinorum, che dice aggress. Aspetta che non ti sento. Qual è sto adagio? Qual è sto adagio? Aspetta, richiamatelo. Luciano, provincia di Lucca, sempre in Toscana siamo, eh. Luciano, vai. Ascolta, ti perdono che l'altra volta mi ha dato del fascistone perché quelle poche righe. Senti un pochino. Non lo so, che hai detto l'altra volta? Ho detto, sai, il giovane Balilla, all'erta sempre sta e compagnia bella. Vabbè, allora? Senti, no, io sono per la Lega. Ti voglio dire una cosa. Proprio dietro tutte le cose che diciamo tutti i giorni, i migranti o no, ti voglio fare una cosa nuova. L'inno Fratelli d'Italia non è un inno di guerra e che non ha nulla a che fare con l'accoglienza che facciamo oggi. Ma no, insomma, che cazzo me ne frega? Ma che me ne frega a me dell'inno italiano? Ho tante cose da pensare, non è che posso pensare. La Boldrini lo canta, tutti lo cantano. Ma tutti lo cantano, perché tutti cantano l'inno d'Italia. Vabbè, non ha più ragione di essere, ma teniamoci. Ma tu l'hai svegliato la mattina con questo pensiero? Interpreta le parole. Ma ho capito, ma chi se ne frega? La patria chiamò. Sì, molti dicono che è un inno molto guerresco, diciamo, no? Cioè, in base a quello che dice Parenzo e tutti gli altri, non ha ragione di essere. Ma sì, ma è un inno che inneggia alla guerra, ai kamikaze, perché sinceramente i kamikaze non mi pare proprio, non mi pare un problema fondamentale. Ma mi sembra, insomma, io, è una cosa da cancellare, se vogliamo essere accoglienti come diciamo. Ma figuriamoci, Marco, vai Marco. Abbiamo ripreso. Allora, Marco, dimmi. Allora, il motto latino, il latinorum è aggressus non tenet in manus taderam, ovvero l'aggredito non ha in mano una bilancia. Quando tu mi aggredisci, chi ha colpa e chi ha ragione è evidente, perché sei tu che mi aggredisci. A quel punto non puoi essere tu il giudice che decide con quanta e quale forza io ti devo rispondere. Ma che follia dici? Quello era nel diritto romano, ma c'è stato qualche secolo dopo. Imbecille di Lucca. Ritardato è un'offesa che non offende lei. Ritardato è un'offesa che non offende me, ma le persone. Lei è un gran maleducato, perché in realtà con questo non offende me. E si qualifica per quello, si qualifica per quello che è, dandomi del ritardato, capito? Imbecille, coglione, maleducato. Maleducato, vergognati, maleducato. Stai zitto, maleducato, che ha insulti migliaia di persone veramente malate. Maleducato, cretino, maleducato. Ha detto ritardo cognitivo. Maleducato, cretino, che offende la gente veramente malata. Imbecille, cretino che non sei altro. Volgare, cretino anche. Somaro, cretino. Marco, maleducato, imbecille. Vabbè, ragazzi, imbecille, maleducato e volgare. Vabbè, verso le persone veramente malate. No, volte. Ma chiudilo, mandalo a quel paese, che può parlare qualsiasi nulla. Imbecille. Marco, che volevi il dire? Primo idiota che parla diventa l'eroe. È un maleducato e ha detto delle cose contro delle persone veramente malate. Via contro di me, ma che me ne frega. Marco, me. Dimmi. Se lo vedo gli sputo in faccia a Marco da Lucca, imbecille, maleducato, cretino. Non deve parlare. Ma che volevi dire? È un maleducato. Maleducato. Maleducato. Tanto non parli. Siete due ragazzini. Tanto non parli. Hai detto una cosa talmente stupida che non parli. Fidati. Maleducato. Posso andare avanti fino alle 21. Maleducato. Posso andare avanti fino alle 21. No, questo non parla. Maleducato. Perché gli hai detto idiota? Vediamo chi vince. Cerchiamo di spiegare. Maleducato. Vediamo chi vince tra i due. Maleducato. Vediamo chi vince. Fai spiegare perché ha detto idiota. Vediamo chi vince. Maleducato. Vediamo chi vince. Ma dai, non ha senso, no? Prova. Cioè, non ha senso. Vediamo. Cioè, vediamo, Marco, prova. Vediamo se vinci. Vediamo come vinci. Vediamo un po' come vinci, maleducato. Ho perso la testa. Vediamo. No, vabbè, è lucido. Maleducato. Vediamo come vinci. No, ha detto una cosa ignobile. Perché è una persona ignobile. Ha detto sei un ritardato. D'accordo. Ma non a me, non ha offeso me. Lui ha usato il termine ritardato. Però offendere. Stai zitto. Vergognati quando torni a casa dalla tua famiglia che si vergogna di te. Non fai parlare un attimo. Vergognati, maleducato cretino. Maleducato, salame. Gliel'hai detto 40 volte. Maleducato, schifoso, volgare, cretino. Ha detto, ti ha attaccato. Infatti non parla. Dai. Infatti non parlo. Marco, vediamo. Dai, forza. No, vediamo un po'. Non parlo, però. Non parlo, certo però, che non parli, maleducato. Adesso fra poco decido io. Fra poco decido io. Marco, allora dai, forza, vai. Allora, il problema è questo. Le persone come Parenzo hanno una cosa che molti altri non hanno. Tanti soldi. Con sì, tanti molti. Soldi. Ma vabbè, quello che problema è, spiegami. Ma che ne sai tu, cretino maleducato imbecille? Lascialo parlare un secondo. Ma che ne sai di quanti soldi ha uno? Salame miserabile che non sei altro. Ma basta questa gente che chiama e insulta. Ma che cazzo vuole questo? Ma chi sei? La gente chiama e dice quello che vuole dire. Ma chi sei, Marco Da Lucca? Ma vai a fare il culo. Così passi dalla parte del torto. Ma non me ne frega niente. Questo ha detto ritardato. Come parlando dei malati di mente. È un cretino, poveretto. La sua famiglia si vergogna di avere tra i suoi membri Marco Da Lucca. Ma così fai la figura del pazzo, perché l'hai ripetuto 40 volte. L'hai ripetuto del lucido pazzo. Povero Marco Da Lucca. Il povero Marco Da Lucca. Allora, povero Marco idiota. Da Lucca ha sbagliato perché ha attaccato subito dandogli dell'idiota. No, senza... no, ma non per quello. Per quello non mi interessa. È anche ritardato. Solo per quello mi sono arrabbiato, ma non per me. Perché del parere di Marco Da Lucca ti posso dire. Se ti dico che quanto. Ma no, non frega niente, meno di niente. Ma meno di niente. Meno di niente. Ma io mi pulisco. Non ti dico che cosa con le idee. No, quella figurati, troppo nobile il mio per farsi pulire da Marco Da Lucca. È troppo nobile il mio. Quello di tutte le persone del mondo. Vabbè, il mio solo adesso. È nobile, quello di tutte le ma persone del mondo. Ma non sai nemmeno quello che vuole dire. Ma io so non che sai è un nemmeno povero, quello che vuole dire. So che è un miserabile. Non hai ascoltato, ascoltalo. Ma non mi interessa ascoltare non tutti. Ti interessa, non ti gli interessa idioti ascoltare non tutti. Mi interessa ascoltare. Vabbè, Marco, dai, forza, allora, che volevi dire? Dai. Le persone come Parenzo, come quell'altro demente che ha chiamato prima, di Toscani, hanno soldi per montarsi gli impianti d'allarme, hanno le guardie armate, hanno la vigilanza. Io purtroppo questi soldi non ce l'ho e quindi. Ma perché sei un poveretto, perché guarda che testa hai. Ma non farei mai una lira con questa testa, per forza. Su, fallo ma guarda parlare, che testa hai. Fallo parlare. Ma è evidente, con questo cervello non potrei guardare. Ma neanche non ti danno neanche la carità. Parte ti danno. Ma manco la carità con quel cervello che hai. Se devo fare io quello ragionevole. Non avendo il cervello no. Così, non ti danno neanche un ma euro per strada, passare, perché non fai neanche pena. Stai capito? Passando dalla parte del torto. Sì, no, ma ormai mi diverto. Fagli finire il ragionamento. Gli dimostro l'eccesso a che cosa. Vabbè, non fare adesso il coso, dai, su. Gli dimostro l'eccesso. Marco, allora, non hai soldi per procurarti i sistemi di difesa, dunque. Ho visto che non c'è un dubbio su chi abbia torto ragione. Io sono a casa mia, quindi ho ragione. Sì. Qualcuno viene a casa mia e mi aggredisce, quindi ha torto. Io, come dice il Latinorum, non tengo la stadera in mano, cioè non ho una bilancia in mano, e quindi reagisco non come vuole lo Stato, il giudice Parenzo, reagisco con tutta la forza che ho, tutta la potenza che ho. Se tu dai uno schiaffo a Mike Tyson, quello non è che ti risponde con uno schiaffo, ti dà quattro cazzotti in faccia e ti ammazza. Se tu vieni a casa mia, e è successo 3 anni fa, cioè tu dici si può reagire in ogni modo. Ma no, ma è ovvio, ma guarda, e tu sono scappati via soltanto in paesi, e tu che hai fatto soltanto in paesi così indietro come il nostro non è così. E allora che cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Io ho un'arma regolarmente detenuta e ho sparato. Che arma hai? Ho una pistola. Attento Parenzo lì, c'è la pistola questo qua. Allora Marco, sai che cosa è successo? Che mi hanno indagato, bene, ovviamente, come giusto bene. Che sia. Mi hanno sequestrato l'arma come giusto bene. Che sia. Dopo 4 settimane mi hanno ridato l'arma dicendomi che non c'era niente su cui indagare. Perché ero in casa mia, perché avevo 2 figli. Allora, di cui cosa il piccolo di 4 anni. Che è questo è il ragionamento, ma però vedi che è stupido. Questo qua dà ragione a Parenzo. Ma vedi che è stupido. È uno stai stupido zitto. Questo qua. Stai ma vedi zitto. Che allora sei anche stupido. Che racconti delle cose che dimostrano il contrario di quel che dice all'inizio, ma vedi che sei anche stupido proprio. Fermi tutti. Senti come lo si dice con la bocca bene, stupido proprio. Fermi stupido. Che c'è la pubblicità. Siete proprio delle best. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. La Zanzara. Hai un ritardo cognitivo. Se vuoi te lo ripeto. Hai un ritardo cognitivo. Grande prezzo. Allora, chiudiamo questa disputa o no, Marco? Eccoci. Marco, mi fate parlare 30 secondi. Allora, ma okay, hai già parlato abbastanza, Marco, però adesso non esageriamo. Hai detto tu hai allontanato i ladri con le armi, giusto? Sì, esatto. E allora... non è successo niente. Se sparando avessi colpito uno di loro, io sarei ancora dalla parte della ragione, ma non per la legge, sarei passato dalla parte del... Ma dipende, che se, dipende in che situazione, Marco. Garantisco, lo spende, perché me ne sono fatto una ragione, sono 4 anni che mi studio questi casi, visto che ci sono passato in prima persona, so cosa vuol dire, so quanti sono i costi, so quali sono le spese, so qual è l'iter, te lo dico io, perché hanno detto tutti, l'avvocato, i giudici con cui mi sono confrontato, c'è stato quel forum della giustizia e tutti mi hanno detto la stessa cosa, che ho avuto la fortuna di non colpirli. Quindi quando mi sento dire da un demente come quello che c'era prima, quel finto fotografo, che la colpa è di chi ha la roba di valore a casa, uno che ti dice a me non ci vengono perché non c'ho niente, quelli che hanno la roba di valore vanno a svaligiare loro, quindi è colpa di chi si tiene la roba a casa. Cioè, ma come cazzo suona questa gente? La colpa è sempre dei delinquenti, di quei zingari di merda che difende Parenzo, dei ladri, dei assassini, è colpa loro, hanno sempre torto. Perché Parenzo difende, Parenzo difende sempre i ladri? Difende sempre, i ladri? Sempre dalla parte di questa gente di merda e basta, hanno sempre un motivo. Non mi risulta per che difende, non mi risulta che difende i ladri. No? Ma quando ha detto lui che dovevamo fare una cooperativa sociale per dare da lavorare a chi rubava la stazione di Santa Mariano Bella, ha detto un'altra cosa, non di dare lavoro ai rom, poi io sono contrario alla cooperativa sociale, però non è che voleva dare, perché se no, perché se no stavano lì a delinquere, questo era il suo sì, questo ha detto questo. Questo ha detto, quindi è un povero pazzo, quindi è un povero pazzo, perché uno che ti dice per impedire ai rom di delinquere io gli faccio la cooperativa sociale e li metto in grado di lavorare, almeno non delinquono, questa è follia. Questa è camicia di forza. In un paese normale, se delinqui non ti trovo un lavoro, ti trovo una cella. Dove dovrebbe stare anche quel cretino? Lui e il suo amico fotografo. Vabbè, adesso pure in galera lo vuoi, Parenzo? Pure in galera alla fine, pure in galera. Sì, ma soltanto così per sport, perché mi sta sul cap, è un nano. Ma che c'entra il nano? Adesso hai pure aggiunto pure il nano. Vabbè, ragazzi. È nano. Perché non è nano. Vabbè, è nano. Ma che, per mica sarà un delitto essere bassi, no? Cioè, Marco. No, però puoi mettere la bruttezza, è una delle persone più brutte d'Europa, dai. Vai, se fanno un concorso c'ha la strada spianata. Stai esagerando. Davide, sei impassibile ormai, non rispondi più a me, poverino. Ma non deve rispondere, ma che non devo rispondere. Oh, no, mi hanno già pagato abbastanza per questa puntata, grazie Marco, però mi fate guadagnare altri soldi, perché lei deve sapere che ogni grazie. E stasera però una bottiglia di champagne a nome suo, perché deve sapere che io ho nel contratto ogni insulto in più che faccio. Ma non è vero, c'ho uno scatto. Non è vero. Capito? Mentre lei ogni mentre lei ogni stronzata che ma dice vero, comunque, a una ragazzi. Persona per strada in più che la guarda dice Marco Da Lucca, oh mamma, e cambia strada, lei ha questo, perché come massimo risultato ha questo, io ho uno scatto in più a ogni insulto. Ma non è vero, quindi grazie per avermi fatto fatturare alle 19:40 quello che in genere non fatturo in un anno di lavoro. Grazie, allora, Marco Da Lucca, dimostra ancora anche, di più quanto ti faccio tu guadagnare sei. Anche ti faccio guadagnare anche due sette di formaggio, va bene? Daniele da Lucca, torna Lucca, che è una città importante, la città sia di Del Debbio che anche adesso, no, perché ci sono anche persone intelligenti, sia di Del Debbio, oltre a Marco Da Lucca, che fa fare alla città una bella figura, sia Del Debbio sia anche Marcello Pera, ad esempio, sì, perché adesso ricordo, non vorrei no, forse un lucchese non vorrei che il nome della città venisse associato impropriamente a tal Marco Da Lucca. Daniele Trento, è un danno economico per la città, mica da ridere, ospitare un cittadino così idiota. Daniele, ma senti com'è la parola, senti, ma siccome questa era, guarda che senti, te lo riscateno, ti riscateno Marco, sono riscateno Marco, dai. A disposizione Marco, richiamalo. Ci sei ancora? Idiota, senti, no, come abbassato. Esce bene Daniele, da certo, dentro è tornato della sua spelonca, ovvio, della sua grotta, è tornato. Dimmi, vai avanti, dai. Niente, volevo un attimo scollegarmi da quest'ultimo discorso per ricollegarmi alla notizia d'apertura. Non c'era nessun discorso. Quindi, ma vabbè, allora Varoufakis, Varoufakis, i soldi dati da cosa? Sì, da Fazio. I soldi dati a Varoufakis, 24.000 euro. Sì, da noi, in realtà, soldi nostri, soldi nostri. Certo, soldi dei contribuenti. Ma ciò che mi fa più incazzare non sono tanto i 24.000 euro dati a Varoufakis, quanto invece lo stipendio di Fabio Fazio, che si becca un milione. Vabbè, quello sono cazzi della Rai, eccetera. Cioè, sono cazzi della Rai fino a un certo punto, perché se sono. Bisognerebbe provare se c'è un mercato per quelle trasmissioni lì, se effettivamente funziona il mercato, perché molti dicono sì, certo, ci sono ascolti, però poi ha mercato quella roba lì, oppure non lo so. Comunque, sti cazzi. Cioè, i soldi che prende dalla Rai, sarà la Rai a giudicare il direttore generale, esatto, il presidente, certo, sono sempre soldi nostri. Cioè, a me quello che mi fa incazzare non è tanto Fazio, che è un professionista, che può essere mandato via in qualsiasi momento, ma sono le persone inamovibili che fanno i dirigenti da tanti anni, anzi non lavorano e prendono i soldi lo stesso, ma lasciamo perdere. Daniele, allora? Sì, assolutamente questo. No, niente, appunto. Va bene, è Angelo dalla provincia di Brescia, vai Angelo. Pronto? Dimmi Angelo. Ah, buonasera. Ieri sera per caso ho visto Oliviero Toscani. Sì. Mi ha fatto pena. Addirittura? Sì, sì, sì, guarda, una roba. Quanto il fatto che non so perché lo chiamino quel personaggio lì che dice solo cavolate, di robe serie, robe costruttive, zero. Lui ce l'ha con tutti e sì, con tutto. Va bene. Poi volevo dirti una cosa riguardo le armi. Sì. La detenzione e il permesso di portare armi, no? Sì. Sono due cose distinte. Uno, lo sappiamo, può tenere sì, le armi in casa per uso di lo sappiamo benissimo. Dunque? Perché c'è qualcuno che dice il porto d'armi, no, il porto d'armi serve per portare un'arma fuori di va casa. Va bene, Angelo, abbiamo capito. Paolo dalla provincia di Cosenza, dai. Paolo. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi, dimmi. Senta, io volevo dirti, adesso non ho le prove alle mani, però sì, che sì, stiamo raccogliendo delle firme, siamo arrivati a 3.007 sì, firme di un'associazione che vogliamo, si chiama Italia Antimentale, sì, che vogliamo far riaprire i manicomi. E perché volete riaprire i manicomi? Perché parliamoci chiaro, purtroppo quando vediamo un Bonanni che va in TV con una pistola in mano, sì, o vediamo quelli che parlano a Radio Padania, la gente che parla a Radio Padania, siccome sono dei terroristi e non possiamo fare niente, almeno che facciano un tagliando annuale obbligatorio in un centro di igiene mentale. Solo per questo, per ma questo dai, vogliamo insomma, che è sta cazzata? Come no? Ma sbagliamoci chiaro, ma ti rendi conto che ha creato sto Bonanni? Buon anno, come si chiama? Che ha creato? Lui? Che ha fatto? Ha enfatizzato le armi a casa. Perché parliamoci chiaro, questa è gente che ha votato Bossi, ha votato il Trotto, allora? Ha votato il Trotto, sono facilmente influenzabili. Se tu ascolti la tua padania te ne accorgi di che gente vabbè, è. Anche gli ascoltatori che intervengono da noi sono belli carichi. Parliamoci chiaro. Si presenta in TV con un'arma e quindi di conseguenza... Da manicomio, bisogna far aprire di nuovo i manicomi, almeno un tagliando annuale. Fermi tutti! Amici miei! Siamo al flop. La Zanzara. Allora, Paolo Ruffini, l'amico Paolo Ruffini, mi ha fatto ricordare la vicenda del forno olandese, caro Parenzo. No, ricordo. Tu hai risposto, come al solito, in modo formale a una chat a tre con l'amico Paolo Ruffini. Ma no, Ruffini, era tardi, non volevo smorzare l'emozione, anzi era di che non è una chat a tre, non è un'orgia a tre, è semplicemente una conversazione telefonica a tre, io, Paolo Ruffini e Parenzo insieme a un'altra persona. Però mi ha fatto ricordare, non mi ricordo, mi ha fatto ricordare un'altra persona? Sì, mi sembra di sì. No. Mi ha fatto ricordare la vicenda del forno olandese. La vogliamo ricordare per tutti quelli che ci stanno ascoltando? Sì, fu un momento altissimo di questa trasmissione dove si parlava di flatulenze. È un tema molto importante perché tutti scorreggiano, diciamo la verità, e tutti subiscono le scoregge. In particolare l'amico di Luca che ha chiamato prima. Non lo so, vabbè, adesso ti sei fissato su quello di Luca, dai, lascialo sentito perdere. Allora, quello è il bersaglio ora. Non hai sentito quello Marco che ha detto? Marco, sì, ho sentito quello che ma ha detto. Ma lo sanno anche a casa, infatti l'hanno allontanato. Ma non l'hanno allontanato a Luca, da casa. Ti dai do una notizia oggi, visto che non do notizie. Sì, Marco da Luca, dice. Marco da Luca è stato allontanato da casa. Per quattro giorni ha avuto una sorta di bando, sì, è stato bannato dalla città. Cioè, il sindaco ha emanato un decreto che il sindaco manda, proprio una cosa. Un'ordinanza, bravo, perché me l'hanno segnalata poco fa, scusa. Scusami, Popolanza, sì, un'ordinanza, sì, dove non può entrare a 2 chilometri dalla città per via appunto delle sue flatulenze. Insomma, questo è un problema enorme che ha. Comunque, per telefonare, infatti, ha dato nel comune limitrofo. Andrea da Roma ci ricordò, anzi ci spiegò cos'era il forno olandese. Il forno olandese è una tecnica, in poche parole tu la molli sotto le scorregge, la lasci covare qualche secondo, dopodiché le alzi ed esce quello sauvage che... Esce lo sauvage! Il forno olandese consiste nel rilasciare un'aria, una flatulenza sotto le coperte, sì, lasciarla covare, fermentare. Fase 1, aspetta, fase 1, fare la flatulenza sotto le coperte. Le coperte come devono essere? Due. Scusa, le coperte devono essere belle sì, strette. Sì, sì, sì, sì, belle strette. Sì, fase 2, sì. Fase 2, rilasciare un paio di secondi a lievitare sotto le coperte, le aree, sotto le coperte. Poi sollevare neanche troppo delicatamente per far fioruscire il risultato. Sollevare con forza, meteorico. Fase 3, sollevare con forza a quel punto. Ma è discrezionale. Discrezionale, va bene. Sollevare e agitare eventualmente. E agitare le lenzuola, diciamo, le coperte, agitare un po'. A quel punto che succede? A quel punto, se nei tuoi intestini fermentano i resti di un pasto vegetariano, ad esempio, avrai un risultato molto molto molto più nauseabondo. La mitica teoria del forno olandese, dove c'entrano anche i vegetariani, lo avete sentito, no? Cioè, più sei vegetariano e più emetti flatulenze sullo stile del forno olandese. Beh, l'amico Ruffini mi ha ricordato in questo modo Andrea da Roma e gli ascoltatori che sono seguiti in quella meravigliosa serata. Parezzo, che delusione, ma non ti ricordi di quell'ascoltatore che ti raccontò del forno olandese, cioè di lui che scorreggiava sotto le coperte e poi tratteneva, cioè chiudeva le coperte e ne faceva uscire, diciamo, gli effluvi lentamente per mantenere proprio sotto il lenzuolo lo sauvage. Lo sauvage. Ah, scusa, altra segnalazione, segnalano la presenza di Marco da Lucca in provincia di Pistoia, lo segnalano dall'odore che sento. Ti sei fissato, amico mio, quando io mi fisso, amico mio, cosa senti succede? Adesso chi ti regalo, perché io mi sono fissato invece su un'altra storia, questa follia del tuo amico Fiano e altri personaggi del Partito Democratico di voler punire fino a due tu anni sai, di galera. Io sono d'accordo solo su una parte, vabbè, l'abbiamo già spiegato ieri. No, vabbè, perché io sono molto d'accordo con quel che dice Fiano. Cioè punire il saluto romano fino a due anni di galera. Su chi commercia in cimeli, quello è i cimeli prima guerra, loro seconda vogliono, guerra. Loro vogliono punire, no, seconda guerra mondiale, cimeli fascisti e nazisti, li vogliono punire. Allora perché non puniamo pure il pugno chiuso e non puniamo anche chi commercia in Stalin o in cimeli dell'Unione Sovietica? No, che differenza questo, c'è? Questo è esattamente, noi siamo l'Italia stessa l'Italia cosa. Ha subito il fascismo. Ma è uno quindi, dei più grandi collezionisti e commercianti di cimeli fascisti oggi in Italia, si chiama Veschini di Perugia. Io proverei a chiamarlo l'amico Veschini, personaggio molto simpatico, numero uno assoluto, sabato e domenica sarà qua a Milano per una cosa che dopo racconterò. Proviamo, dai. Pronto? Veschini? Sì. Sono Cruciani, ti vogliono mettere in galera. Speriamo! Ti vogliono mettere in galera perché commerci i gadget dei fascisti, capito? Ma va benissimo, era ora che mi mantenete voi gli altri. Fino adesso l'ho mantenuto io, venite a mantenere voi gli altri adesso. Ma che hai mantenuto te? Chi hai mantenuto? Mi nonno? Ma che? Parenzo, fascistone Veschini numero uno, signor Veschini. Numero uno per chi vuol farlo credere, fagli chiedere se è numero uno. No, beh, io... Numero zero, ma non importa. Ormai il fascismo non esiste più, sono tutti granfiti della mignotta, tutti quanti. Ma chi sono figli della mignotta? Chi? Tutti! Destra che sinistra, sono tutti uguali. Tutti uguali, era meglio quando c'era lui, il politologo. Se non altro c'era un pochino più di severità. Senti, Veschini, no, ma tu hai letto che alcuni deputati del Partito Democratico vogliono punire il saluto fascista fino a due anni di galera. Il saluto fascista... Ma lasciate perdere, ti giuro. Ma siete bacati nel cervello. Ma io che c'entro? Mica l'ho proposto io. Questo è Parenzo che lo propone. Gli amici di Parenzo lo propongono. Ma mica va io. Benissimo, fanno bene. Magari, ma sarei felice. Cosa? Ma perché... Saresti felice di che? Andà in galera, almeno mi riposo, mi mantengono loro. Se mangia, se deve, se tromba e non si pensa niente. Ma scusa, cosa vuoi dalla vita? Non credo. No, tromba non credo, caro Veschini. Ah, se... sì, con i compagni di cella probabilmente ti diverti, sicuro. Sì, ma sì, i compagni quelli... lasciali da parte. Gli amici di cella, amici colleghi di cella. Ma in cella non puoi trombare, al massimo te fai gli uomini in cella. Ma no, ma te passano le donne. Ma che te piacciono gli uomini a te adesso? Io sono il vecchio stampo, ancora mi piace il sesso femminile. Ormai è pieno di gay questo mondo, eh? Oh, ma lascia perdere. Non ci sono più regole, quando non c'è più rispetto del prossimo, se fa tutta decadere. Se c'era lui. Ma se c'era lui, c'era. Basta leggere un pochino di vera storia, non quella che ti fanno i compagni, no? Cioè, ma metteva scusa, un po' di ordine in questo paese. Come no? Vanno a criticare Baffino, che ha bruciato quattro epistronzarelli. Guardassero Stalin che ne ha ammazzato 86 milioni Baffino. Fra ebrei, comunisti e zingari. Vabbè, io con questo idiota non parlo più. Baffino che ha bruciato quattro. Vabbè, dai su, Veschini. Ma lascia perdere! Baffino, tu, quattro stronzarelli, dai. No, con questo povero imbecille non ce ne deve parlare. Quelli che stanno facendo sti quattro imbecillotti laggiù, fanno il muro, no? Hanno fatto tanto per buttare giù un muro e sti quattro beduini, no? Ma chi dici? Gli ebrei, dici? Gli ebrei? Ma lo Stato di Israele. Il Padre Eterno? Tanto è diverso, ebrei, dice, è scritto nel Vangelo, sì. Vagherete per 40 anni nel deserto, sì. Neanche i serpenti sonagli sopravvivono 40 anni, hanno sopravvissuto gli ebrei, pensa un po' che razzaccia, che lascia perdere, su. Ma dai, ma su, che, su. Beh, parlare, questo più si sente parlare, più si capisce che però merita il carcere. Tu dici che merita il carcere? Beh, quello che ho sentito, diciamo, ne ha bruciati pochi, cioè, io già sapevo e... che sarebbe finita là, però... Morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitò, siede alla troppa gente padre, in libertà, alla destra, troppi idioti in libertà ci sono, guarda. Ma tu lo il fai popolo italiano si deve armare, sì. Si deve armare, sì. E tenersi pronto. Ognuno che viene a rompere i corbelli dentro a casa, gli deve sparare in bocca, dal più piccolo al più grande. Beh, su questo è d'accordo con te. Ma tu ce l'hai la pistola, scusa, Veschi. Ma tu non ti preoccupare, lascia perdere. Vabbè, evidentemente c'è una pistola, amico mio. Ma no, lascia perdere. Ce l'hai il fucile o la pistola o no, Veschini? No, no, io sono contro, diciamo, la violenza. Io ti butto dalla finestra, abito al sesto piano. Beh, quella che non è violenza pure quella, in teoria, cioè... No. Io quando vado a casa della mia figliola, io sono il campanello. Hai capito? Che se viene un ladro a casa tua, se viene qualcuno a casa tua, diciamo e che tu la conosci. Quella manco apre perché si vergogna. Ah, io butto la finestra, fosse un ragazzino da un anno, uno di 80 anni, sì. Te lo giuro, sopra i miei genitori sono morti, io li butto dalla finestra. Vai tranquillo. Oppure spari. Io tiro un coltello della cucina, gli do una coltellata, perché no, cioè, le armi io non ce l'ho. Ma tu il saluto romano lo fai? Sempre. Sempre, è fisso. Sempre. E come si fa? Mi vergogno, Come si fa il saluto romano? Ehi! Come si fa? Come si fa? Apri la mano per far vedere che dentro non è rubato niente. I compagni ha visto come chiedono il pugno chiuso perché c'hanno tanta roba da nascondere che hanno rubato. Vabbè, ma che fai così ai tuoi amici? A chi lo fai il saluto romano? Diciamo a quelli che ti portano rispetto, quelli che ma ti adesso, da adesso in poi potresti rischiare la galera, no, amico mio. Ma no, fallo, così il sangue ti circola male, ti pia un coccolone. Cruciani, non mi interessa nulla. E la galera l'andata via, fischi quattro caconi. Ciao, un grande abbraccio. Abbraccio, Veschi. Ciao. Brucida. La zanzara. Guarda che c'è gente strana in giro. Allora ragazzi, qualcuno, anzi l'amico Dino Giarrusso mi suggerisce che già due condanne, credo per il saluto fascista, sono state fatte in Italia, due condanne, credo per, naturalmente non per il saluto, certo, in sé, ma per apologia di fascismo o cose, sì, di questo tipo. Sbagliatissimo, molto sbagliato. Che bisogno c'è? Non c'è nessun bisogno, cose residuali, cose ormai molto molto limitate. Folklore, puro folklore. Ma sai, folklore. Ho un annuncio da fare. La parrocchia di Santa Maria degli Angeli, Assisi, Perugia, ci invita alla ordinazione diaconale di Fra Danilo Cruciani. Beh, la voglio conoscere io questo qua, Fra? La parrocchia di Santa Maria degli Angeli ad Assisi ci invita alla ordinazione diaconale. Ma ci invita di... che si invita la zanzara, non sì, credo. Sì, certo. Ma di fra, ti giuro, di fra Danilo Cruciani il giorno 31 ottobre 2015. Ma avranno sbagliato, dai. La veglia di preparazione sarà celebrata al centro pastorale parrocchiale venerdì 30 ottobre alle ore 21. Sono invitati insieme a voi tutti i parrocchiani e gli amici che hanno condiviso con lui il cammino. Ma tu sai che io ho avuto questa. Un lontano zio prete, eh? Tu anche. Non sai, sì, beh, non ti sì, sei certo. fatto mancare nulla. No, sapevo che uno era un oncologo, uno zio. Don Giovanni Cruciani. No, un oncologo, uno, io sto parlando... un prosta, uno di chi si occupa di prostata, come sì, si chiama? Sì, che ha operato un sacco di gente alla prostata, sì, sì, un urologo, scusami. Ma sì, c'è anche un prete, nella genealogia della mia famiglia, in quel di Ficulle, in quel di Sala, provincia di Terni, Orvieto, insomma, a una quindicina di chilometri dietro, c'è stato un signore che ha retto una chiesa, faceva il prete, diceva messa eccetera, per tanti tantissimi anni. Come cambiano le generazioni, non è cambiano, sì. Tu non hai preso niente da questo zero. Prete assolutamente nulla, assolutamente nulla. Ah, fermo un momento, uno strumento nelle mani del demonio. Dimmi che c'è. Ah, niente, volevo segnalare gli ascoltatori in viaggio verso Lucca che hanno bloccato una statale perché è passato appunto Marco da Lucca, hanno bloccato una strada, quindi non c'è accesso alla città. Ma non è vero, questo è un'informazione sul traffico. Scusiamo per il disagio, sì, beh, così. Patrizio Terni, vai Patrizio, dimmi. Ciao Fra Cruciani, buonasera. Fra Danilo Cruciani, che verrà. Io abito a 7 chilometri da quella chiesa a Sala di Ficulle. Beh, siamo veramente al top qui, eh. Al top, siamo veramente al top, assurdo. Dove abiti, Patrizio? Io abito a Fabbro. Beh, Fabbro Scalo, diciamo, Fabbro normale. Fabbro Scalo. Bene, ottimo, posti stupendi, meravigliosi. Si mangia tanta carne da quelle parti, cari vegani, eh. Questo è vero. Tantissima carne in quel locale. E ce là, ne sbattiamo i coglioni di quello che dice. Carne alla brace di ottima qualità. E ce ne sbattiamo i coglioni di quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lasciateci morire in pace. Non ce ne frega nulla. Lasciateci morire in pace di cancro. Non ce ne può fregare. Beh, di meno. Sì, ma tanto, se proprio deve guarda, essere. Guarda, Cruciani, bisogna morire. Quindi è meglio morire con tutti i vizi. Sesso, sì, tra l'altro, droga, io salsicce. No, amico mio, calma. Io la droga non mi drogo. Grasso cerco di mangiare il meno possibile. Appunto. Le salsicce ne mangio poche. Quelle sì, di fegato. Tu il primo a essere quelle salutista. Di fegato. Io sono abbastanza salutista. No, appunto. Però non sono vegano né vegetariano. Non no, mi avrete mai. Non mi avrete mai. Quando passi da Fabbro, fammi uno squillo che ti porta a mangiare dell'ottima carne in un bellissimo locale e te lo offro anche. Vabbè, quello lascia perdere. Patrizio, che volevi dire, dai? No, niente, io volevo dire a quel cretino che sta vicino a te, ecco, che mi deve pagare. Però è a Roma, cioè è vicino ma è a Roma. Ok. Mentre lui è a Milano. Mi dovrebbe ridare i soldi del televisore che ho sfasciato con un calcio la sera, sì. Che lui era ospite. Bravo. alla 7 nel dibattito con la Meloni. Esattamente, sì, sì. Hai spaccato il televisore. Beh, sei una persona intelligente tu. Perché? A un certo punto, ma io non c'è problema, Parenzo, dopo il sei una persona dopo, intelligente andato, me lo sono ricomperato. Bravo. Però almeno ho avuto la soddisfazione di spaccarti il tuo televisore in faccia. Allora a te. Spacca che anche la radio. Un grandissimo ora. Senti la voce, perché spacca non davi pure la radio. Ma perché che ha fatto? Alla Meloni di sì. Dire quello che aveva da dire su quanto riguarda il tema di quella serata, che era io sparo. Ora, per arrivare a spaccare il televisore è successo qualcosa, altrimenti sei uno psicopatico. Dei disturbati. No, beh, sì, un po' di psicopatico ce l'abbiamo un po' tutti. Poi quando lo tiri al tecnico, cioè, ti è presa così, ti è presa la vena. Mi è presa così male perché nei paesi limitrofi a Ficulle, a ma quanto Fabbro, valeva il tuo televisore? Niente. 900 euro. Hai spaccato, bellissimo, fantastico. Sì, no, guarda, sai che mi fa anche quasi piacere. Un sinistro. Ma perché non ti spacca anche la radio? Allora, no, ma io avrei spacca voglia di dividerti in due, sì. Di metterti spacca la radio. Sei 1,40 m, 70 cm. Spacca la radio. Perché con quegli occhietti che mi sembrano due palline di un flipper, con quel fucile orologino, con il cinturino rosso che stavi facendo, no, blu. Tutta una la radio. No, una pippa mentale, dici te, una pippa mentale, difende sempre chi entra nelle case degli altri, non dai la possibilità. Ma adesso ho capito perché ha spaccato perché non capisce. No, Davide, cioè il fatto che tutti quanti, Patrizio, fermo là, il fatto che tutti quanti pensino che tu difendi i ladri è curiosa questa cosa. Però è strano che tu hai capito, siccome tu sei una persona intelligente in realtà, cioè giochi a fare il populista a dare ragione ai miseri. Ma perché dici che è un misero? Lui capisce che tu in televisione difendi ladri. Ma uno che dovresti interrogarti, però, dovresti adesso, interrogarti. Scherzi a parte. Ma uno che spacca il televisore. Vabbè, ha spaccato, gli è presa la vena, dai, gli è partita la vena. Ma è un disturbato. Gli è partita la vena, amico mio. Ma dai. Si può dire almeno che è un disturbato o no? Ma non lo so, diglielo a lui, no, diglielo. No, lo sta dicendo a lui, mica a te. Patrizio, ha detto che sei un disturbato. Cosa? Ha detto che sei un disturbato. Sicuro? Sì, molto probabilmente sarò anche un disturbato. Beh, però io conduco una vita normalissima, lavoro, produco, ho una dimostrato. Casa, pago le bollette, pago va tutto, mi diverto. No, io sono quello lì, Cruciani, che tanto tempo fa, quando l'onorevole Scilipoti disse che aveva fatto la proposta di legge perché non si poteva fumare in macchina, io ti ricordi, forse non ti ricordi perché di telefonate ne ricevi in quantità industriale, sono sceso in macchina e mi sono fatto un bel cannone. Sì. No? Cioè sei andato in macchina e ti sei fatto un cannone in macchina. In macchina, perché lui dice che in macchina non si deve fumare. Vabbè, io in macchina, ho capito, però macchina, tu come... è stato uno stregio incredibile, sera, è stato riportato da tutti i giornali prima di andare a comprare il televisore. Sai cosa ho fatto? Perché poi io sarò anche disturbato. Sono andato in caserma, ho fatto tutta quanta la richiesta che bisogna fare per avere il porto d'armi per uso sportivo. E allora? Quindi tutti quanti i versamenti. Dunque? Sto facendo tutto quello. Mi compro la pistola anch'io. Adesso ti vuoi comprare la pistola? E bene, chi se ne frega? Compro la pistola. Ah, bravo. Perché dentro casa mia, se te la danno, ma non te la casa daranno. Mia, Cruciani, chi entra dentro casa mia, io non è che lo sparo per ammazzarlo, io gli sparo alle gambe, poi lo trascino in una buca che molto probabilmente avrò preparato e dentro la buca ce lo metto vivo. Vivo, vivo, lo vuoi seppellire vivo. Lo voglio seppellire vivo, perché in quei 3 minuti e mezzo che passano da quando lo metto dentro vivo a quando lo finisco di seppellire, lui gli deve ripassare davanti tutta quanta la vita e tutto il male che ha fatto. Ho capito, Massimo da Milano, ciao Patrizio, Massimo. Pronto? Vai, dimmi. Ciao, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Allora, premetto, io odio profondamente Parenzo da un punto di vista intellettuale, non umanamente. Sì. Odi Parenzo dal punto di vista intellettuale, però... Sì, non mi trovo mai d'accordo con lui, però sulla questione della difesa personale gli devo dare ragione, perché secondo me si bisogna ammazzare solo esclusivamente se sei in pericolo di vita, cioè non per difendere una proprietà. Io faccio l'esempio banale, anche a me mi girano le palle perché mi hanno tagliato le gomme 4 volte. Però non è la stessa cosa. Se becchi uno che ti sta tagliando le gomme della macchina, non è che gli spari, amico mio. Sì, ma anche in quel caso non è ma che. Ma in quel caso non c'è legittima difesa. Guarda, non esiste la legittima difesa. Ma non c'è se tu trovi difesa, qualcuno. Ma non credo proprio, guarda, Massimo. Non credo che la legittima difesa si applichi al caso in cui. Si applichi al caso in cui ti vogliono bucare, ti stanno per bucare le ruote della macchina. Perfetto, cosa... però, se tu ti rifai la pistola e spari, ma anche se ti stanno rubando la macchina, se spari vai in galera. Siciliano, almeno da quello che ho visto in TV, perché poi ci sarà il processo, al momento siciliano ha steccato la persona fuori dall'appartamento, pertanto lui non era in pericolo di vita. A me non interessa, urlare, ma che ne sai che non era in pericolo di vita? Che ne sai? Che ne sai? Ma no, a parte che la legittima difesa non si applica solo nel caso di pericolo di vita, come diceva Parenzo, ieri è stata cambiata la legge dal centrodestra ed è stata resa anche più, cioè più semplice. Ma che è giusta una cosa del genere? Non è giusta. Assolutamente, se no facciamo un popolo di Far West, ognuno si tiene la pistola in casa, facciamo come nei film americani che se entri nella mia proprietà ti posso sparare. È sbagliata. No, è giustissimo. Bisogna, se tu entri nella mia proprietà ti sparo, difendi, proprio così deve essere. Ma tu difendi una se proprietà. Tu entri nella mia proprietà io posso sparare, a parte che puoi sparare anche adesso e probabilmente la fai franca. Il problema è che in Italia la legge, i processi sono lunghissimi, eccetera, eccetera, eccetera. Futuro non troppo lontano, caro Parenza, avremo, secondo i fondamentalisti vegetariani, vegani e quant'altro, i cartelli nelle macellerie. Non mangiate la carne perché è cancerogena. Come potranno essere questi cartelli? La carne nuoce gravemente alla salute, con le immagini del cancro provocato dalle salsicce. Questo avremo. Anzi, alcuni comuni stanno già partendo con una grande campagna di affissione delle macellerie. Senti un po'. Pronto? Macelleria? Già al telefono. Buonasera, chiamo dal comune. Come lei sa, da oggi è obbligatorio esporre all'entrata degli esercizi il cartello "la carne nuoce gravemente alla salute". Lei ha provveduto? Io dovrei fare una campagna contro i miei interessi, scusi. Mi dispiace, però la salute delle persone arriva, credo, prima degli interessi dei singoli. Questa, certo, è la realtà. Certo. E lei nel frattempo continua a mangiare verdure. Visto che lei mi ha detto, non proprio cortesemente, continui a mangiare verdura, io non è che la chiamo. Perché la telefonata inopportuna, visto che lei parla di battute mie inopportune? Beh, mi ha detto mangia avanti verdura. Ma a me non mi sembrano belle le battute che sta facendo lei, guardi. Magari fossero battute. Se la carne provoca tumori. Se ne leggono tante, sapesse quante se ne leggono. Magari se ne come leggono anche un bue all'anno da quando sono nato, si figuri. Sì, buonasera, chiamo dal comune. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso i dati secondo cui gli insaccati e le carni rosse sono tra le principali cause di tumore al colon, pancreas e prostata. È una cosa proprio ridicola questa. No, non è ridicola, stiamo parlando di tumore. Come se poi fosse l'unica cosa che fa male. Quindi le porteremo questo cartello da esporre all'entrata. Magari potete portarlo anche luminoso, così la sera lo facciamo lampeggiare. Pronto? Sì, buonasera, macelleria? Sì. La chiamo dal comune. Lei saprà sicuramente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso i dati secondo cui gli insaccati e le carni rosse sono tra le principali cause di tumore al colon. Senti, con questo problema mi avete proprio rotto un quattro, era proprio tutto quanto. Non so venire proprio niente. Mi lascia parlare. Sì, però, guardi che c'è una nuova. C'è una nuova normativa. È obbligatorio da oggi esporre all'entrata del vostro esercizio un cartello con su scritto "la carne rossa nuoce gravemente alla salute". Sentite, non mi passa manco un cazzo, io non espongo niente, non ci venuto niente, ma fa male solo la carne rossa, ma perché va avviato sempre che cosa? A me non mi passa manco un cazzo, io non espongo niente. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Ormai è tutto degradato ormai. Allora ragazzi, la Boschi difende la Bindi, la Boschi difende la Bindi per le frasi di De Luca, frasi inaccettabili, si deve scusare. Sembra un po' quasi il segretario del Partito Democratico, cosa che forse diventerà, eh? Beh, sì, di fatto, sì, certo. Questo per la politica, ma che cazzo ci frega a noi, la Boschi che chiede. Ma torniamo a Mario Da Lucca. Ma sì, vabbè, scusa, vuoi mettere Mario Da Lucca come ascoltatore piuttosto che un qualsiasi politico ospite? Ma non c'è dubbio. Ma no, ma di la verità, non c'è alcun dubbio, no. Dai, non c'è alcun dubbio. Ho dai. Gusti diversi. Tu hai gusti diversi, ma alla fine devi ammettere che è così, non c'è niente da fare. Devo ammettere che ci sono problemi sulla viabilità di arrivare a Lucca oggi. A proposito, c'è un altro della provincia di Lucca, tra l'altro è venuto fuori sulla vicenda Varoufakis e i 24.000 euro spesi dalla RAI, cioè spesi da noi, diciamo dalla RAI, da noi, sono soldi nostri. Sì, pronto? Chi è? Varoufakis, chi è? Chi è? Vuole i soldi pure da noi? Vabbè, è venuto fuori che in realtà la BBC ci è andato gratis. E questo è il punto, amico mio. Alla BBC pare ci sia andato gratis. Lo leggo adesso sul Corriere.it. Gratis! È andato gratis alla BBC e noi l'abbiamo pagato 1000 euro al minuto. 1000 euro al minuto. Unica TV a pagare cifre simili alla BBC gratis. Sai chi era? Chi era? Era il mio amico il dottor Cencelli. Ti ricordi Grande Cencelli? Che te senti? Vedi che però, scusa amico mio, a me quando mi chiamano transessuali, sai però chi è? Puttane, gente di mondo, gente Cencelli. Mauro da Manto, eccetera. Ecco, a me ti chiama il signor Cencelli che aveva 85 anni, amico mio. No, un po' di meno veramente. Beh, legge 82, se non c'era, per carità, va benissimo anche 82 anni. Ma non è che... Il dottor Cencelli, quello che del manuale, voleva, che voleva dottor Cencelli? Bisogna chiamarlo. Ma che voleva Cencelli? Che voleva? Cencelli vuole dire delle cose anche qui da noi. Dice, voglio dire delle cose su Marino e su Renzi terribili. Stupendo. E allora ho detto: signor Cencelli, ecco, ho detto, guarda, adesso a te ti pare normale? Io ho una mezza notizia su Marino minuti, che esploderà tra domani e dopodomani. Tra ma domani, possiamo chiamarci Cencelli? Aspetta, tra domani e dopodomani esploderà. Esploderà la questione Marino. Tu vedrai. Sì. No, è già esplosa. No, è già esplosa. Esploderà ancora di più perché la questione giudiziaria. Ma alla fine, se tu dovessi scommettere, no? Facciamo 20 euro, no? Seriamente, 20 euro. ce la fa? Cioè i consiglieri comunali del PD, il consiglio comunale si dimette, lo fa dimettere, sì, oppure sì, resistono? Sì, dovessi sì. scommettere? No, oggi? No, scommetto sul fatto che la giunta si dimette tutta, cioè lui resta senza giunta e i consiglieri comunali lo sfiduciano. Secondo me, se lui resiste, scommetti 20 euro. Io invece non scommetto sul fatto che resista, cioè scommetto sul fatto che alla fine mollerà perché sta trattando fino qualcosa. Fino all'ultimo dici, non molla l'osso. No, questo dici, è il punto l'osso. Più divertente della storia. Molto divertente, sì, molto divertente. Beh, sì. Allora, Gianluca dalla provincia di Lucca, stasera, provincia di Lucca, Poi Antonio da Milano, Domenico da Roma. Vai Gianluca. Pronto, buonasera Cruciani. Dimmi. Volevo intervenire su Varoufakis. Vai, vai. No, volevo dire che sono scandalizzato. Che stai mangiando, Gianluca? Stai mangiando? 24 sì. Che stai mangiando, amico? Sto mangiando dei crostoni. Dei crostoni, beh, siamo crostoni, veramente, veramente al top. Di pane casareccio col pomodoro e la mozzarella. Beh, amico mio, fantastica. Mi fai venire l'acquolina in bocca. Qui ho una fame, qui sto morendo le 8:20. È l'ora di cena. Lo so, Gianluca, dai, allora. No, dico. Ma te le sei fatti da solo? Ti sei fatto tutto da solo? 56 anni. Sì. Ti sei cucinato da solo? Cucinato? Hai preparato queste cose da solo? Oppure c'è una simpatica signorina, una giovane croata che ti aiuta? No, la mia moglie. La tua moglie? Sì. La tua moglie ti prepara tutto. Allora? Sì, no, e dico io sono scandalizzato. Aspetta un attimo, Massimo! Sì? Come stai? Ma io male, sì. Beh, non c'è male. Massimo Ceccherini, è meraviglioso. Sono Cruciani, ciao, come stai, la Zanzara? Cruciani di chi? Sì, di quella cazzo di trasmissione che tu insulti sempre, la Zanzara, là, no, quella radiola di merda. Innanzitutto io non ho mai insultato la tua trasmissione di merda. Ma faresti bene, no. Oh, mi è scappato merda, no, ho avuto un periodo difficile. Ma tu hai sempre sto uscendo da che? Sto disintossicando, sta calmo perché vengo a Milano e ti spruzzo l'autan nel culo, ok? Programmino marcio di questa zanzarina di merda, ma quante puntate, ma lo volete finire? Piglia su una vacanza, un mal di gola, una febbre, stai zitto, chiudi bottega. Ma questo accadrà per molto altri. Sono in forma, sai perché? Perché sei in forma? Perché mi sto per sposare. Ma che è sto rumore? È Parenzo, chi è? No, forse è il mio fegato. Non lo no, so. È Parenzo che accende tutto. Parenzo accende. Allora, se incontro Parenzo, che gli fai? Lo frusto con l'ortica a culo nudo. No, bello. Come con Renzi. Aspetta, Parenzo, allora, chiudi questo cazzo di telefono. Pronto. Non fa tanto. Allora, io non sto per sposare. Veramente ti stai per sposare? Allora, in diretta ti fa parlare con mia moglie. Amore, vieni. Fammi parlare con tua moglie. Zanzara di merda, dillo. Pronto? Sì, buonasera. Lei sarà la nuova sposa di Ceccherini? Certamente. Sì, quanti anni ha lei? 18? Zanzara di io? Merda. No, 18. 58. 58 anni? Beh, una bella tardona. Tardonissima, vecchissima. Che caratteristiche hai per piacere a Ceccherini? Che sei? Non lo ascoltare. Sono malata di mente. Sei malata di mente primo, sicuramente. Sì. Non hai bisogno di sesso perché Ceccherini non scopa più, non so da quanto tempo. Assolutamente lo scopa più da 20 anni. Non finisce qui. C'ho anche la sorella. Cioè me le sposo tutte e due. Cioè. Di Zanzara di merda. Zanzara di merda, questi due si sposano. Bellissimo, che bei momenti. Scusami Massimo. Questo è spettacolo. Massimo, spettacolo. Scusami un attimo. Ma tu lo sai. Aspetta, tu lo sai che esiste. Vabbè. Lo sai che mettono in matrimonio a tre anche, no Massimo? Tra poco. Per cui puoi sposarti tranquillamente. Perché dopo il matrimonio tra gay, che sicuramente a te piacerà moltissimo. Matrimonio tra gay, non fare tanto lo spiritoso, perché tu sai che io e te ci siamo conosciuti al Gay Pride. È vero, è vero. Come tu eri davanti e io dietro. Quindi sì, non fare però altro. Ero davanti per osservare, non per prenderlo in culo. Ma senti, ma ti pare che io, mentre mi sto per sposare, devo perdere tempo con un imbecille? Comunque. Lazio, dell'Aquila che vola. Ma la storia di cosa, Massimo? Ma che c'entra la Lazio? Sono laziale, sì, ho capito. Allora, sai tutto. Sono felice, sono felice. Ma, senti, ma che sei così carico? Che hai fatto? Mi regali dimmi qualcosa, per un confetto marcio, qualcosa del matrimonio. No, ti regalerò sicuramente qualcosa. Qua c'è una persona che vuol parlare con voi, aspetta un attimo. No, aspetta. Spero che non siete l'Equitalia. Ma perché, che c'hai contro l'Equitalia? Aspetta che mi sta telefonando sotto. Ti frequento tutti i giorni la roba. Ma perché? Quanti soldi devi dare Equitalia, scusa? Un euro. Ma che un euro, sì, minimo 100.000 sono, guarda. No, ma un euro ma al secondo. Scusa, Cruciani, abbiamo scherzato, è una serata fantastica per me, è rovinato, avrai capito, ma voi, ci tenevo a essere serio. Eccolo vogliamo, qua aspetta un attimo, Massimo questa diceria di Renzi che si narra, che io avrei detto, ecco appunto. L'hai detto al Fatto Quotidiano, tu hai picchiato con l'ortica Renzi negli anni 80. Allora dimmi, posso parlare due secondi? Vai. Allora, l'intervista al Fatto Quotidiano come viene fatta, tu sei esperto più di me, lo sai, sì, telefonicamente, sì, quindi qualcuno mi ha inculato, perché non sono io, cioè una voce simile alla mia, sì, ha detto quelle cose. Io nego, perché io Renzi lo amo, le cafa dove va bene così. No, non ho capito. No. Allora, non è che hai detto che da giovane vi incontravate insieme a Piraccioni e facevate un po' di bullismo nei confronti di Renzi picchiando. Sì, ma non l'ho detto io. È stato Panariello che imita la mia voce. Ho capito, era Panariello. E allora io ti dico com'è andata. Allora, quando eravamo ragazzi, Renzi veniva al bar, eravamo io, Carlo Conti, Pieraccioni, Panariello. Sì. Panariello frustava con l'ortica. Pieraccioni riteneva le caviglie, perché lui vuole avere meno colpa. Sì. E Panariello, non vedendo tanto bene, perché ha un problema alla vista per via di una certa masturbazione, che adesso non scendiamo nei dettagli, frustava. E difatti Carlo Conti, che gli reggeva le spalle, perché, vi domandate perché, è sempre abbronzato? Perché? E ogni tanto Panariello frisiava la chiappa di Renzi e beccava in faccia Conti. E quindi tutto così. Ma è rimasto traumatizzato, secondo te, da questa esperienza, Renzi? Sono o no? Rotto i coglioni, addio. Ma ciao, no, dai, ma che rotti i coglioni, scusami. Dai, non puoi trattarci così adesso. Ti devi anche sposare, devi essere un po', devi essere buono, dai. C'era una persona che voleva salutarlo. Ma chi lo voleva salutare? Ma che è successo? Massimo, aspetta qui. Ma tu ha abbassato sul serio, veramente? Ecco qua, aspetta un attimo. Fermo, stai zitto. Dimmi, caro. Siamo per le scorregge. Non ho capito, scusami. Devo parlare per le scorregge. Devi parlare per le scorregge. Devo parlare. Che vuoi dire delle scorregge? Io mi faccio l'insulina. Ti fai l'insulina? Sì, che c'hai? Diabete? Che c'hai? È diabete. Ma mi è andato un nuovo tipo di insulina. Mi incomincia a far fare scorreggi dalla mattina fino alla sera. È interessante questo. Cioè, l'insulina produce flatulenza. Questa è la nuova cosa che abbiamo trovato qui. Interessante per le 24. Grandi inchieste della Tatara. A quest'ora il professor Squinzi credo che sia per il gruppo il Sole 24 Ore. Un argomento fondamentale, quindi questo qui. Che mi toglie l'appetito. Non ho capito, scusa. Ora di cola di cena, poi perfetto, la gente va a casa. È l'insulina che mi toglie l'appetito. L'insulina ti toglie l'appetito. Eccolo qua. Ma chi è? Eccolo qua. Adesso lo lontano. Adesso lo metto in onda, ti giuro. Sì. Adesso guarda. Vai. Pronto? Sì. Pronto? No, sta zitto tu, Antonio. Eh? Metti il viva voce. Ma si sente? Pronto, sono in diretta, Giovanni Benincasa. Ma no, dai, aspetta, mi hai detto di chiamarti durante la pubblicità, ma hai fregato. No, no, siamo durante la pubblicità. Vabbè, lascia, dai. Chi era? Antonio, vai. Tira giù quel telefono. Antonio, che vuoi dire? Sì, io ne faccio quasi una trentina all'ora. 30 scorreggi all'ora fai? Vabbè, ma dai, tutta la giornata. Non è possibile, dai, su. Io non ce la faccio più di sentire queste storie. Oggi abbiamo sentito la storia le più svariate, le più impossibili. È veramente la trasmissione più pazza del mondo, come ha detto Giampaolo Panza. È un medicinale che non mi fa mangiare niente. Cioè, l'insulina ti fa produrre 30 scorreggi al giorno. No, 30 scorreggi all'ora. Allora, 30 scorreggi all'ora. Ma che, dove cazzo devi vivere? In un bunker? Cioè, chi si avvicina a te, ma profumano o puzzano? No, non puzzano, quella fortunatamente. Non puzzano, ma una puzzerà su 30 al minuto, no? Sì, 30 qualcuna all'ora. Sì, ogni qualcuna tanto. Qualcuna sì, ma il forno olandese? Sì, abbastanza. Cioè, con le coperte tu ogni tanto... Sì, devo uscire subito fuori dalle coperte. Però si produce una specie di osvage, no? Sì, o no? Sì, la sento, sì. La senti, sì. Allora, io non ho capito, perché hai chiamato? Per dirci che con l'insulina si producono molte... Con l'insulina si producono molte scorreggi. Ma tu sei a letto fisso? Cioè sei No, lavoro. quest'altro tossisce, fa di tutto, ragazzi. Quando devo fare qualche visita particolare, quest'altro, non mi faccio quest'altro c'ha l'insulina, quello tossisce, quell'altro scoreggia, 30 scoreggia al minuto e poi io sarei quello che non sono normale. E poi sono io, Parenzo. Tu tossisci davanti al microfono e metti il telefono di uno che ti chiama. Ma quell'altro uno è Giovanni Benincasa, come uno che quell'altro ti scoreggia 30. Ma è Giovanni Benincasa! Su, e poi sono io, sono la persona più normale di tutti, forse non l'avete capito ancora. Sono il più normale di tutti qua dentro. Sono il più assolutamente, mi sono sempre più convinto di questa cosa. Ecco, vedi, dice chiamate Panariello. Ma chi se ne frega, che non ce la faccio, io non vi sopporto, è un programma brutto. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. La Zanzara. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Vi voglio bene. Massimo! Oh! Oh, e basta! Ciao bello, no? E che cazzo, hai abbassato il telefono così? Ma che ma sei che impazzito, fa? Sei? No, ma che siamo ancora in diretta? Certo! No, allora lo riabbasso! Ma no, ma che riabbassi? Ma no, ma veramente te... C'è la Fiorentina, 10 minuti manca la Fiorentina. Ah, è vero, 10 minuti. Oh, noi ogni volta che ci sentiamo è quando c'è la Fiorentina, è incredibile, oh. Cioè, ti rompiamo sempre i coglioni quando c'è la Fiorentina. Ma vince ancora la Fiorentina. Lo so che siamo in diretta al tuo programmino marcio. Ma vince ancora in diretta, la Fiorentina ogni tanto. Aspetta, ti ripasso mia moglie. Ha perso due partite la Fiorentina, dai, su, cercate di vincere. Sì, ma veramente sei sua moglie o no? O la... Sono la sua fidanzata. Ma come si fa a essere fidanzata? Come si fa a fidanzarsi? Perché esco, sono uscita 2 mesi fa dall'ospedale psichiatrico. Ma veramente bisogna avere coraggio. Ci siamo incontrati. Cioè, è veramente incredibile questa cosa qua. Cioè, non scopa, è praticamente ubriaco fradicio. È un perverso pazzesco. E quello sarebbe anche positivo. Ma io mi curo per questa cosa. Ma che fa dalla mattina alla sera? Zanzara di merda, è stato un colpo di fulmine. Come è stato un colpo di fulmine? Siete una gabbia di matti quella cosa. Ma lì è il trisom, come si dice? Sì, ma il trittico. Il trittico, Ma com'è, com'è la convivenza in tre? Com'è la convivenza in tre? In tre, anche in cinque. In cinque, ti piacciono le cose, sì. Ti piacciono? Sì. Sì, ma io voglio capire, siete tutti riuniti lì a Casa Ceccherini a vedere la partita della Fiorentina? Questo è carino. Certo. Bello, Brindiamo, chiaramente. Ma che fate, birra e lampredotto? Ma che birra e lampredotto? Ma quando mai? Ma che vaso, quale birra e lampredotto? Questo è rimasto. Dobbiamo entrare in chiesa. Oh, Ceccheri. Dobbiamo entrare in chiesa, per favore. Sì, no, vai, voglio capire una cosa. Ma che fai? Ti fai il panino con lampredotto adesso davanti alla partita? Ma questa ancora. Sì, inutile che fai lo spiritoso. Io ci metto un attimo a arrivare lì. Ma che fai? Mandalo a fare in culo. O ti mangi il lampredotto con la birra? Ma che zanzara di merda. Ma no, manda a far culo Parenzo, non me, che c'entro io. Ma chi? Parenzo? No, Parenzo. Conosci Parenzo? Sì. Mi attrae sessualmente. Mamma mia. Più di Pieraccioni? No, Pieraccioni era una storia vecchia, ormai siamo solo amici. Solo amici, solo amici. No, lei è stato lui che mi ha fatto, cioè che mi ha sfondato proprio nel mondo. Lo so, ma adesso ti fa sta pure. Sono troppo felice. Zitti, entra al prete, devo andare. Devi andare. Cioè. Vuoi tu, devo dire. Vuoi tu vedere la Fiorentina e stare in tranquillità? Senti, vuoi tu? Laziale, sei molto attento a cosa. No, ma io spero che voi. No, speri l'aquila che vola. No, dovete tenere lì, dovete restare in alto lì. E no, lo sai perché? Anche la Lazio. Io non ho capito una cosa. Tra Equitalia e la Juventus, chi odi di più? Chi odi di più tra Equitalia e la Juve? Ti posso dire, non lo so, questi cioè secondo te Massimo tra Equitalia e la Juve chi odi di più? Tra Equitalia e la Juve? No, allora io non odio nessuno. La vabbè Juve, odi così dai. La Juve non non riesco a dirlo. Non riesci a dirlo. Esorcizzato dal solo. Ma non sei per esempio un po' orgoglioso che ci sia Renzi presidente del Consiglio? Certo. Diciamolo da fiorentino. Renzi, cioè, in questo momento è a Cuba, sì. Perché non va da Castro e gli dice: io dovrebbe andare da Castro e dico una cosa seria davanti a Ceccherini. Crociani, basta. Aspetta, davanti a Castro, ma sai che dovrebbe. Mi devo rompere i coglioni a parlare. Perché con ti piace? Perché ti piace? Donne. Perché ti piace? Perché in fondo ti piace. A me mi piace Parenzi. Ti piace Parenzo? Ti piace? Allora, visto che devo parlare con me, approfitto di questo mezzo, di questa radio di merda che nessuno ascolta, per dirti una cosa. Io come mio secondo lavoro è a premarcio. No, primo. Il secondo, no, vedi l'emozione che ho mia moglie. Di qual è? Cosa. Qual è? Il mio primo è l'inventore. Ho brevettato un'invenzione che comunico a tutti, che rivoluzionerà il mondo. Ovvero? Il membro. Sì, il membro. Se lo hai small, guarda, questa è una cosa che ti interessa perché io te l'ho veduto. Se ce l'hai small? Sì, di colpo ti vengono tutte le crisi interne. Come risolvere questo problema? L'ho inventato io. Beh, una cosa saresti... Ieri mattina all'ufficio brevetti. Allora, tu prendi il tuo membro, vai in un alveare dove si fa il miele, fai leggere un buco a circonferenza, quindi molto piccola perché nel tuo caso. Certo. Ce lo infili dentro, lo tieni 10 minuti, con le api. Esci fuori, chiaramente con le api, esci fuori e... A Rocco si prende, lo prende di sacco, esce fuori un cappello, sono molto felice. Un ultimo saluto a donne mie, salutiamo tutti in coro la Zanzara. Dai, salutate in coro la Zanzara. Che bei momenti. Ciao Cruciani, non mi chiamare mai più. Vaffanculo, ciao. Non dovevo chiamare là quello del 100%, stasera niente. Cioè, pure Pierini lui è forte perché pure anche lui, educa- pure cioè lui la Fiorentina, domani. È educato. Sì, educato, non dice mai parolacce. Mai, cioè, infatti, questa è la sua trasmissione ideale, non capisco perché non viene sempre. Signor Ceccherini. No, signor ma Ceccherini. Poi è di una classe, di un'educazione. Allora, questa anche invenzione che ha fatto. Allora, ti devo dare due notizie interessanti. Due notizie. La prima è questa: in Marocco. Ormai è tutto incredibile. In Marocco qualcuno ha imitato la voce della moglie del re. I signori marocchini. I signori del Marocco. Ha imitato la voce della moglie del re. Condannato a 5 anni di carcere, ti giuro. Condannato è come se condannassero Andro Mercù, come se condannassero Andro Mercù per aver imitato la voce di Renzi o della moglie di Renzi. Ma diciamo ti tagliano di Renzi. La lingua in Marocco. Cioè, una cosa incredibile, dai, su. C'è questo tizio che si chiama Khaled, si è finto la principessa in una conversazione telefonica con il pugile, un altro pugile marocchino. 5 anni di galera. L'altra notizia è questa: c'è un pazzo cristiano di questi qua in America fondamentalisti, il quale sostiene questa cosa un po' bizzarra, alla Dinolfi, diciamo, no? Se tua moglie non ha voglia di fare sesso, basta non guardarla in faccia. Non permettere che uccida la tua erezione. Cioè, questo tizio in America. Non ho capito. Sì, no, aspetta, te la spiego meglio. Secondo questo tizio, le donne a cui non piace fare sesso con i mariti dovrebbero almeno fingere. Dovrebbero almeno fingere. Non contano i sentimenti, conta solo il dovere. E il corpo della donna appartiene all'uomo. Questo è uno che legge la Bibbia, e poi uno dice delle religioni, no? Se tua moglie si presta con una certa riluttanza, sto leggendo alcuni passi di questo simpatico signore. Se tua moglie si presta con una certa riluttanza al sesso, basta non guardarla in faccia. Il volto della tua bella sposa diventa orribile durante il peccaminoso momento in cui ti sta concedendo del sesso controvoglia e fa delle smorfie che vogliono dire solo fai in fretta e facciamola finita. Focalizza gli occhi sul corpo, non sulla faccia. Focalizzati sul piacere visivo che ricevi nel guardare il suo corpo. Il corpo di una moglie appartiene al marito. Nel sesso non si tratta di sentirsi in vena o meno, non si tratta di sentimenti, ma solo di fare cosa è giusto. Ma perché non esistono questi personaggi in Italia, caro Parenzo? Perché non esistono? Beh, perché? Non mi pare perché? Che manchi. Perché? Ma non mi pare che manchi. No, il campionario non manca, effettivamente. Sergio da Catania, vai, Sergio, vai, volata finale, ragazzi, vi voglio in forma, carichissimi, vai, Sergio, carichissimi. Buonasera, vai. Vi voglio bene anch'io. Ragazzi, però c'è un'altra cosa, voglio contribuire, lo devo chiedere a Ceccherini, voglio contribuire alla grande discussione sulla figa rasata. Vediamo cosa dice. No, sta iniziando la Fiorentina, ci manda a fare in culo. Sulla figa rasata oppure sulla figa pelosa. L'altro giorno, Massimiliano Parente, che purtroppo non vuole venire alla radio, ma mi piacerebbe moltissimo, devo dirvi la verità, che fu anche persecutore, non so in che modo, comunque uno che con le donne ogni tanto quando si punta tu martella, Vabbè, caro Dago, scrive una lettera a Dago Spia, mi schiero nella battaglia Unshaven, ormai a ogni cunnilingus, questa è la frase fenomenale, ormai a ogni cunnilingus sembra di avere davanti un sushi. Beh, devo dire che è stupenda. Le donne sono convinte che ai maschi piaccia depilata come una bambina, in parte è vero perché i pedofili non sono solo in Vaticano. Vabbè. Sergio, vai! Chi c'era prima buonasera, che stava chiamando? Richiamatevi. Vi voglio bene anch'io a tutte e due, nonostante quello che sto per dire. Allora, io l'ascolto da tanti anni, a tratti, ogni tanto vi ascolto un po' meno, vabbè, pazienza, ma poi torno e penso sempre una cosa: alla zanzara ci vorrebbe una figa figlia di mignotta come a te, Crusani, perché Di Parenzo che si collega sempre dal telefono, sempre con veramente studio, è quasi sempre studio, Sergio, ti sbagli, una volta tanto si fa trovare in radio, no, ti sbagli, abbiamo su sentito, questo ultimamente no, è stanziale. Allora è diventato più morigerato, mi fa piacere. No, morigerato in che senso? Morigerato mai stato, ma no, purtroppo quello è il... Vabbè, Sergio, qual è il punto? Non è una donna. Vorrei vedere una donna come a te, nel senso, una che poi questi discorsi magari li facciamo trattare, non una persona che appunto. Sì, lo so, il problema è che non è. In continuazione appoggia o non appoggia, risponde come un bambino di 5 anni. È vero, che sai, che è sgarbi in versione ridotta, no? Per sinceramente. Il problema fondamentale non è la donna o un uomo, non c'entra assolutamente nulla, è uno che sa fare la radio. No, non c'entra niente, Parenzo, lascia perdere, ognuno dà i suoi giudizi su di me, su Parenzo. Ma non ce l'ho con lui, che gli voglio tanto bene, ma non ce l'hai con lui, non lo so se ce l'hai con lui, la verità. Ma d'altra parte non rimarrebbe neanche senza lavoro, perché insomma lo vediamo sempre da altre parti. Che cosa vuoi, che lo caccio? Non ho capito, che lo cacciamo? No, ma ci mancherebbe altro. Allora? Non parlo con te, parlo più che altro con gli editori, forse, della zanzara. Gli editori non contano un cazzo, decidiamo noi chi c'è e chi non c'è. Contano, certo. Questo è fantastico, questo mi fa piacere. No, ma contano, nel senso, contano sempre. Insomma, la trasmissione avrà un... Tu hai capito che vuole, Sergio? Dei prossimi... Che cosa vuole, Sergio? Hai capito? Lorenzo, hai capito cosa vuole? Sicuro, sto provando... No, veramente, sono concentrato e sto provando ad ascoltarlo, ma non ho capito. Cioè, vuole una voce femminile che, no, che non sia... è solo per la voce femminile, che no. Sarebbe insomma una questione di quota rosa alla zanzara, vabbè. Vabbè, Sergio, adesso capisce, fermo veramente. Lì, perché c'è il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Vai con gli ascoltatori di Radio Padania, vai! Servi di Roma fuori! Che tu veramente sei un grande razzista, sei un pericolo, cazzo, per questo Stato. Tu sei un milodio, cazzo, e quelli l'ignorantone, quelli che ti sentono, ci credono, cazzo. Io spero veramente che questa radio non va lontano, si chiude, chiudono, cazzo, non serve a niente, cosa serve a Radio Padania? Per seminare questo cazzo di odio? Questo se la stanno a prendere con Radio Padania, gli ascoltatori stanno seguendo il tuo consiglio, i fratelli. Bene, infatti l'appello finalmente è stato raccolto. Bella la tua terra. Non si è capito un cazzo, perché non sa nemmeno parlare questo individuo. Beh, no? Magari poi gli danno la cittadinanza italiana lo stesso. Il suo nome, si capisce solo il suo nome, che è cazzo, dice cazzo 37 volte. L'unica cosa che si capisce. Fuori. Inizia la ribellione degli ascoltatori di Radio Padania contro l'intruso arabo. Che lui è un contribuente, non so a cosa contribuisca. Forse ha contribuito a impestare le nostre città, a degrado delle nostre città, e non ci stiamo, caro signore filosofo dei miei corbelli. Sali Padania. Giovanni, provincia di Chieti, vai. Forte la tua voce. Giovanni, dimmi Giovanni. Ciao, allora io volevo intervenire a favore del forno olandese. Ah, il mitico forno olandese, amico mio. Sì, il mitico forno olandese, perché prima ho risentito la replica di quando ne parlavate, sì. E sostanzialmente il tizio che parlava, che ora non mi ricordo chi fosse, stava dicendo che il meglio si ottiene con i vegetali, no? Sì, dicono il meglio della flatulenza si ottiene con i vegetali, certo. Ma io ho rimesso quella cosa semplicemente perché c'era quella. Ho ricevuto questo fantastico messaggio audio del signor Paolo Ruffini, del professor Paolo Ruffini, anche lui estasiato dal ricordo del forno olandese. Evidentemente gli è rimasto impresso il forno olandese, no? Ma io volevo dire due cose su sto forno olandese. Ma tu lo fai o no con la tua fidanzata? Lo fai o no con la tua moglie fidanzata? Sì, cioè, non mi dire che tu scorreggi a letto con la tua fidanzata. Mamma mia, ragazzi. Ma alle volte capita. E poi alzi, conservi tutto sotto le coperte e poi dai una botta. Poi dici che i matrimoni durano poco. No, ma se la gente non solo prendo. Alzo le coperte, ma ammanto la sua testa, così. Vabbè, ma sei un perverso, un maniaco, ma perché non ti lascia? Sì, no, è bello che non mi lascia, la cosa divertente è questa. Comunque volevo dire a tutti gli amanti fate all'amore e trombate anche con avvolti da una nube di scoreggio? Sì, ma io so che tu queste cose le puoi capire. No, io le posso capire, certo. Beh, le posso capire. Ma no, c'è gente strana in giro, però. Ma no, comunque, che gente strana. No, non far passare per normale anche questo. Guarda, veramente. No, ma no, io non ho più la forza di arrabbiare perché ho anche la tosse ancora. Non far passare per normale questo concetto. Cioè, quale concetto? Che uno dice, ti piace trombare a volta da una ruba di scoreggio. Sì, sono sconsolato perché poi sembro veramente matto. E la cosa che mi fa, che alle volte mi interrogo, che mi metto in discussione, dico, ma forse sbaglierò io, forse. Poi però ti rimetti subito in ordine perché risenti questa cosa. Non può essere normale una roba così, cioè non credo. Giovanni, allora concludiamo, dai, ti prego. Concludiamo, io volevo dire che per mia esperienza il meglio lo ottieni dopo una settimana di antibiotici e mangiando il broccolo. Là c'è una settimana di antibiotici, più broccolo, c'è proprio altro che o sauvage. Proprio siamo al profumo, quello del romanzo Il profumo di Susskind. Hai visto che colpo che c'ho, che colpo di cultura alla fine, A domani, ciao! Questo è spettacolo. Show must go on. Senti, io chiuderei qui, ma vattene a far culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione. Si sente.